Bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata numero 190 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Su internet ci potete trovare al sito www.cacciafotone.it. Questa settimana ci occuperemo di zoologia, ma soprattutto di veterinaria. Cari ascoltatori, come sapete, questi non sono argomenti che Cacciafotone tratta molto di frequente. In realtà una ricerca, una scoperta ci ha portato a farlo. Noi siamo in compagnia con il dottor Alessandro Massolo, assistant professor presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Alberta in Canada, e con lui parleremo di un paper pubblicato qualche giorno fa su PLOS ONE intitolato Human Activity Helps Prey Win the Predator Prey Space Race. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Alessandro, a questo punto lascio a te la parola e soprattutto lascio a te descrivere con le 100 parole iniziali il contenuto di questo paper, in cui si parla in qualche modo di prede e predatori. A te la parola e spiegaci soprattutto che cosa sono le prede e che cosa sono i predatori, soprattutto rapportati con lo studio che avete realizzato. Allora, questa ricerca è una ricerca condotta dal dottor Marco Musiani della Facoltà di Environmental Design qui all'Università di Calgary, in cui io sono stato coinvolto solo in una seconda fase, in fase di analisi, di elaborazione del testo e del paper. Questo studio si articola sostanzialmente nell'utilizzo di alcuni strumenti non invasivi come le trappole fotografiche digitali, cioè sono degli strumenti che vengono collocati dove gli animali selvatici, in questo caso, transitano più probabilmente per cercare di registrare l'intensità del transito di animali selvatici, di bestiame domestico e di uomini, persone, di turisti. In questo caso specifico l'obiettivo era cercare di capire quale fosse l'intensità della presenza dell'uomo in alcuni percorsi di una zona, di un parco nazionale qui nelle Montagne Rocciose in Canada. Quindi, in altre parole, avete cercato di capire come interagiscono uomini e animali. La domanda sostanziale era quale fosse l'effetto dell'attività turistica, e nella fattispecie sì, proprio turistica, sull'uso dello spazio e sull'interazione preda-predatore. Cioè se la presenza di turisti e quale intensità di presenza potesse condizionare l'evitamento di quel determinato percorso da parte dell'elk, che sarebbe simile al nostro cervo, del moose, che sarebbe l'alce, o delle specie predatori come il cougar, il puma, o il coguaro, come diciamo noi, il lupo e le due specie di orsi che sono presenti in quest'area, che sono l'orso nero, il black bear e il grizzly, chiaramente. Alessandro, ti ringrazio. A questo punto ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Nella prima parte della trasmissione cercheremo di capire a quale letteratura avete attinto e soprattutto in che modo avete fatto questa ricerca, questa scoperta, e nella seconda parte della trasmissione cercheremo di capire i risultati a cui siete arrivati. A dopo. Al mio segnale scatenate l'inferno. Sleep, you wanna chat, you wanna talk about the thises and the thats. Oh no, oh no, the lights are out, I'm getting cozy when you turn on me and tell me you're not trying to be nosy, but you wanna know the things that I am thinking all about in my head. I'm dead. I get the feeling that I'm gonna have a sleepless night ahead. All this touchy-feely crap, and it's just in time for bed. You say to open up and let emotions run so deep. You say to talk about my feelings, but I'm feeling I just wanna shut up and sleep. You say to talk about my feelings, but I'm feeling I just wanna shut up and sleep. I'm a guy, I don't know why you think I'm always overflowing while my feelings are just rowing away. Like a glove, you know I don't think I'm above you, and you know I love you, and I'm always thinking of you, but I'm feeling like I oughta just shove you on the bedroom floor. E quella che state ascoltando è Talk About Your Feelings di George Woodward, un'altra canzone Creative Commons che abbiamo scelto per questa 190esima puntata di Caccia Fotone. All'interno di questa puntata ci stiamo occupando di zoologia. Intanto benvenuti di nuovo in studio, ce ne stiamo occupando col dottor Alessandro Massolo, assistant professor presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Calgary, e con lui stiamo parlando di un paper pubblicato qualche giorno fa su Plus One. Ecco Alessandro, con te vogliamo parlare di questo paper, di questa ricerca che coinvolge tre soggetti: gli uomini, gli animali preda e gli animali predatori. Prima però di cominciare ti devo chiedere a quale letteratura avete fatto riferimento, cioè a quali lavori avete attinto per realizzare questa ricerca, questa pubblicazione. Allora, diciamo pure che noi ci siamo concentrati soprattutto sul concetto di quelli che qua vengono chiamati top-down and bottom-up effect, cioè sugli effetti che alcuni sistemi, cioè l'effetto che il predatore ha sul sistema preda e quindi sull'ecosistema, oppure il fatto se io altero per esempio la vegetazione di un ecosistema, altero la struttura di comunità degli erbivori e quindi altero il predatore, la struttura di predatori. Allora il nostro concetto fondamentale era: l'uomo che tipo di diciamo effetto ha in un parco nazionale mentre fa delle attività che si dice a basso impatto, ok? Allora già si sapeva dagli anni 80 in una pubblicazione, credo proprio su Nature, ma non ne sono sicuro, che laddove i predatori vengono spostati o allontanati dall'uso di un determinato territorio, quello stesso territorio veniva usato preferibilmente dalle specie preda. Lo studio degli anni 80 era uno studio fatto da dottor Mitch, un famoso lupologo, diciamo, noi in Italia li chiamiamo lupologi, un famoso lupologo che aveva notato dove al confine tra due branchi di lupi, dove c'era un grande conflitto territoriale da due branchi di lupi, il territorio veniva preferito dai caprioli, da dei deer, diciamo, ecco, da dei cervi. Ora, lo stesso principio si applica, se vogliamo, qui. L'uomo agisce come elemento di disturbo anche quando espleta delle attività ricreative, che sono definite a basso impatto. Stai parlando dei turisti, quindi? Il turismo, sì. Può essere turismo a cavallo, bicicletta o semplicemente trekking. Okay? Più delle volte trekking. Allora, cosa succede? Che ci sono alcuni carnivori, in generale i carnivori, i predatori, i grossi predatori, sono molto più sensibili alla presenza dell'uomo di quanto non lo siano gli ungulati. Soprattutto, diciamo, nei grandi parchi nazionali, dove gli ungulati non sono assolutamente cacciati. E la domanda fondamentale era: se esiste un effetto di displacement, noi lo chiamiamo displacement, cioè di spostamento spaziale dei predatori, questo effetto può avere una conseguenza sul rapporto preda-predatore? Il fatto che si allontanino i lupi da un certo territorio condiziona il comportamento della preda. Era questa fondamentalmente la domanda che noi ci ponevamo. Senti, torniamo alla domanda principale, la domanda di prima. Lavori precedenti, a quali risultati erano arrivati? Ma diciamo che sostanzialmente il risultato principale era che c'è un effetto sul predatore, ma innovativo rispetto al precedente è il fatto che anche attività ricreative di così basso impatto alterano il sistema. L'alterazione può non essere drammatica, chiaramente, ed è molto localizzata, ma di fatto alterano il sistema. In studi precedenti si avevano in realtà dei risultati ambigui. In alcuni casi non si avevano dei risultati significativi, in altri si avevano dei risultati estremamente significativi. Ora cerco di spiegarmi. Alle volte in questi studi tu magari puoi arrivare a delle conclusioni che complessivamente erano già ottenute, ma quello che noi siamo stati in grado di fare è stato di utilizzare una tecnica non invasiva molto semplice come trappole fotografiche. Peraltro sono trappole a infrarossi che non disturbano gli animali quando vengono fotografati, perché gli animali neanche si accorgono del flash a infrarossi, e volevamo cercare di capire non solo se vi fosse un effetto della presenza dell'uomo, cosa che comunque era nota, ma cercare di capire se vi fosse un effetto soglia, cioè se vi fosse un'intensità di presenza oltre la quale questo effetto si manifestava. Questo effetto si manifesta solo al di sopra di una certa densità di turisti, diciamo. Senti, ultima domanda prima di andare in pausa con un piccolo pezzo musicale. Dal vostro lavoro risulta che l'uomo è un elemento costruttivo o distruttivo nei confronti della vita degli animali? Dunque, ora, in termini di costruttivo e distruttivo, io non me la sentirei di diciamo dare una valutazione di qualità in termini meglio o peggio. Quello che noi abbiamo semplicemente dimostrato, o abbiamo portato prove verso questa ipotesi, è che vi è un'alterazione. Alterazione non ha necessariamente una connotazione negativa, cioè di fatto l'effetto è un effetto di spostamento nello spazio di alcune specie e di attrazione di altre. Non so quanti dei tuoi radioascoltatori, siano venuti nelle Rocky Mountains, ma nelle Rocky Mountains, lungo le strade asfaltate dove viaggi con la macchina, tu puoi vedere facilmente molti elk, molti moose, quindi cervi, alci, e di tanto in tanto anche molti orsi. Questo effetto dipende a due componenti, diciamo. Ha una componente di tipo di ambiente che c'è intorno alle strade, e quindi noi ci troviamo in un ambiente montano nelle Rocky Mountains, dominato da un bosco, diciamo. Intorno alle strade ovviamente tu hai dei prati, hai più delle aree aperte che sono preferite da alcuni ungulati. Allo stesso tempo tu hai delle zone a cespugli con bacche tipo mirtilli, per capirci, che sono una prelibatezza per i grizzly e per gli orsi, e quindi c'è un effetto attrazione anche di queste aree. Per tenere di conto di questo effetto attrazione, noi abbiamo non solo analizzato per ogni sito trappola fotografica, per ogni trappola fotografica, quante persone, quanti lupi, per esempio, quanti elk, quanti cervi c'erano, ma abbiamo cercato di considerare anche il tipo di ambiente in un intorno di questa trappola fotografica, per cercare di capire se c'era in realtà un effetto di attrazione per il cervo di un determinato ambiente aperto, diciamo, di una prateria, per capirci. E quindi, dicendola in termini matematici, esiste un intorno all'interno del quale ci sono vari sottogruppi, uomini, prede e predatori, che interagiscono fra di loro. In qualche modo le prede fanno qualcosa, i predatori fanno qualcosa e gli uomini sono l'elemento di disturbo, e questo è il significato. Sì, interagiscono in qualche modo, diciamo, l'uomo entra, ora voglio usare il termine disturbando, ma di nuovo ha un'accezione negativa, alterando questo ecosistema, rendendolo meno, soprattutto al di sopra di certe soglie, meno interessante o meno, un po' troppo a rischio, diciamo, per i lupi. E quindi che cosa fa? Sposta i lupi. A quel punto il cervo, che tutto vuole tranne che essere predato da un lupo, si avvicina, e anche perché comunque ci sono delle aree aperte che offrono molto cibo. Ma non frequenta le aree aperte, frequenta preferibilmente queste aree aperte, perché oltre a esserci cibo c'è l'uomo che lo protegge dal predatore, quindi gli fa da buffer, capisci? La cosa bella di questo racconto che stai facendo è che mi sto creando nella testa un'immagine con i turisti sul bordo della strada che danno da mangiare ai cervi, i lupi che vanno via, insomma è tutta un'immagine particolarmente bella che ci riporta ai luoghi dove è stata svolta questa ricerca. Allora, a questo punto ci fermiamo un attimo, ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi continuiamo con questa interessantissima chiacchierata. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così... Bentornati in studio, cari ascoltatori, siete sempre all'ascolto di Cacciafotone in questa puntata in cui ci stiamo occupando di zoologia con il dottor Alessandro Massolo, assistant professor della Facoltà di Medicina Veterinaria presso l'Università di Alberta in Canada, e all'interno di questa trasmissione ci stiamo occupando di un paper pubblicato qualche giorno fa su PLOS ONE. In particolar modo in questo paper si cerca di capire come interagisce l'uomo con gli animali, o meglio ancora come interagisce l'uomo con due categorie di animali, le prede e i predatori. Intanto la coda del pezzo musicale che state ascoltando è di Josh Woodward, si intitola She's on My Mind, e anche questa canzone, questo pezzo musicale è reperibile da jamendo.com, musica Creative Commons. Allora Alessandro, all'interno di questa trasmissione stiamo parlando di questa ricerca e quindi la prima domanda che ti faccio è sulle cosiddette trappole fotografiche. Sulla stampa, in realtà sulla stampa estera, se ne è parlato di queste trappole fotografiche anche non citando il fatto che queste trappole, tra virgolette, trappole in realtà non sono, perché non interferiscono con la vita degli animali, quindi fotografano solamente l'esistente. No, dipende molto dal tipo di trappola che usi. Queste trappole in particolare sono, noi abbiamo usato 43 trappole Reconyx, che sono delle trappole fotografiche, sono delle macchine fotografiche inserite dentro una scatola impermeabile munita di un sensore infrarosso. Okay? In questo modo non c'è flash che disturba gli animali. Gli animali sono assolutamente non disturbati, anche perché dopo un po' di tempo, anche se notano la presenza di un oggetto diverso all'interno del loro territorio, delle loro aree di frequentazione, dopo un po' non si accorgono che l'oggetto in sé non rappresenta alcun disturbo e quindi si abituano e lo frequentano l'area nello stesso identico modo in cui la frequenterebbero altrimenti. E questo è stato dimostrato con l'uso di radiocollari, ad esempio. In questa specifica area poi Questo studio in realtà è iniziato perché Tyler Newley, che è il primo autore di questa rivista, di questo lavoro, stava facendo il dottorato per cercare di capire come, quale fosse la relazione tra i cervi e i lupi e anche come questo alterasse la predazione sul bestiame domestico. Ora, per fare questo, Tyler aveva bisogno di misurare l'intensità della presenza dell'uomo e cercare di capire quale fosse quella componente di alterazione del rapporto tra preda e predatore che fosse imputabile all'uomo direttamente. Possiamo dire quindi che questo è un lavoro preliminare che fa da struttura per alcuni lavori che verranno dopo. Ma in realtà il lavoro è stato concluso, quello di Tyler. Questo qui è stato un lavoro che serviva per supportare le ipotesi di Tyler. Parte del lavoro di Tyler è già stato pubblicato su Oikos, un'altra rivista molto buona, una rivista europea peraltro, molto buona di ecologia, e poi c'è probabilmente un ultimo lavoro verrà presentato sempre da Tyler e da Marco a Nature, non so poi quale sia la probabilità di... Però insomma, quindi diciamo queste trappole fotografiche sono state collocate nella stessa area del sud dell'Alberta, nelle Rocky Mountains, quindi immaginatevi l'America del Nord, lungo la costa occidentale c'è una catena montuosa che corre nord-sud per migliaia di chilometri e definisce due ecosistemi completamente diversi, a est e a ovest. A ovest c'è un grosso influsso marino, a est ci sono le grandi praterie del Centro America e questa ricerca è stata fatta nei parchi nazionali del sud dell'Alberta, nella zona delle Rocky Mountains, prima di arrivare alle praterie. Senti, la scelta del sito è una scelta casuale o una scelta voluta per alcune particolari caratteristiche del sito? Ma i motivi sono stati due. Uno, come ti ho già anticipato, è il discorso che quest'area era importante per studiare il rapporto preda-predatore tra lupi e cervi, e c'era questo studio in atto con una quarantina di radiocollari GPS applicati ai lupi e credo 160 radiocollari GPS applicati ai cervi per cercare di capire quali fossero le loro relazioni spaziali. Quindi non è possibile cacciare i cervi e tantomeno abbattere i lupi. Ed era un'area in cui la presenza e l'attività umana era sostanzialmente legata ad attività ricreative. Quindi era un'area modello per poter studiare l'effetto di questo tipo di attività ricreative, isolando, cioè escludendo tutte quelle altre attività che normalmente possano entrare in gioco e che normalmente altrimenti dovresti tenere in considerazione. Una specie di laboratorio naturale. E invece sulla scelta della localizzazione delle telecamere, assolutamente random oppure segue anche quella dei particolari criteri? Dunque, ci sono due tipi di livelli. Uno si chiama un campionamento stratificato random. Nel campionamento stratificato random tu decidi a priori che vuoi campionare determinati strati. In questo caso i nostri strati erano diversi livelli di intensità della presenza dell'uomo. C'erano dei dati precedenti raccolti da Parks Canada, dall'Agenzia dei Parchi Nazionali Canadesi, e ci hanno permesso di identificare alcuni percorsi che avevano basso livello di presenza umana, medio livello ed alto livello. La scelta specifica dei siti di posizionamento delle trappole fotografiche, delle macchine fotografiche, è stata invece scelta random, perché non volevamo influenzare ovviamente la scelta e l'utilizzo eventualmente da parte degli animali di quella determinata area. Questo effetto lo si può verificare di fatto. Avendo molti animali con dei radiocollari GPS che ti permettono di localizzare ogni certo definito intervallo di tempo l'animale, la posizione dell'animale, tu puoi verificare se il posizionamento della camera, della trappola fotografica, ha in qualche modo alterato il movimento degli animali nello spazio. E quindi è un dato di fatto, non è un'assunzione che noi facciamo. Senti, se volessi spiegare questa ricerca a un bambino o alla cosiddetta casalinga di Voghera, come gliela spiegheresti in poche parole? Al cervo piace molto il turista, mentre al lupo non piace un granché. E quindi quando ci sono troppi turisti, il lupo si scoccia e se ne va, e il cervo gongola, diciamo. Quello che succede in questi contesti, soprattutto nei contesti dei parchi canadesi, dove ci sono milioni di visitatori l'anno, in alcuni di sentieri in particolare, si ha che appunto al di sopra di una certa concentrazione di turisti, questo disturbo turistico dell'attività ricreativa turistica è eccessivo per il lupo. E quindi cosa succede? Succede che il lupo viene allontanato e la specie preda ne approfitta, il cervo ad esempio, ne approfitta per riposarsi senza rischio di essere predato. E allora Alessandro, a questo punto musica ancora, poi torniamo in studio e poi quando torneremo in studio lo spazio per la domanda zainetto. A dopo. Grande Giove. Siamo nella coda finale di Cacciafotone, sempre insieme col dottor Alessandro Massolo, assistant professor presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Alberta in Canada, e quindi arriva la classica domanda zainetto. E quindi quale delle tante cose, Alessandro, salveresti di questa ricerca e metteresti nel tuo zainetto da ricercatore per portarla nelle prossime ricerche che farai nel corso della tua vita? Prima cosa che salverei sicuramente è l'approccio metodologico. Normalmente l'utilizzo delle trappole fotografiche, delle macchine fotografiche, è considerato un utilizzo un pochettino più amatoriale, dilettantistico, ma Marco, Tyler e anch'io ovviamente siamo riusciti a dimostrare che con questi strumenti, se usati appropriatamente e se i dati raccolti con questi strumenti sono stati analizzati adeguatamente, si possono veramente raggiungere dei risultati solidi da un punto di vista scientifico, qui diciamo sound, ok? Invece il secondo risultato è un risultato invece di tipo di risultato biologico. Quello che mi porterei dietro è proprio ogni volta che farò studi di uso dello spazio, anche in aree relativamente remote, dovrò sempre prestare attenzione alla componente umana, anche quando assumo che sia a bassissimo impatto. Questo impatto esiste, non è necessariamente negativo o positivo, ma esiste. E quindi come ricercatore e come biologo io devo tenere in considerazione. Perfetto Alessandro, con questa tua ultima risposta si conclude la 190esima puntata di Caccia Fotone. L'appuntamento per tutti coloro che ci ascoltano via podcast oppure via radio è sempre alla settimana prossima, e l'augurio è di buona scienza a tutti, quello classico. Ciao a tutti! Con chi stai parlando? Dici a me.